la storia di ognuno di noi, la passione di tanti anni fa, stretti sotto i palchi degli eroi, infottati di ogni notte punk. E oggi invece ci ritrovi qui, ostinatamente noi restiamo, per la gente che ci piace a noi, dando il nostro suono a chi vogliamo. Spalle ormai, quell'amore per la tua città, il tuo pubblico e gli stessi guai, è un rimorso che non basterà. Guardi gli occhi della gente che sta aspettando che comincerà, urla diavolo dentro di te, questa notte ci travolgerà. E non si fa legare il cuore che tu hai, e un'altra alba e te ne andrai, e ogni tua notte sembrerà puzzar di noi. Ribellioni, quella degli scaffi e quella in cui ti perdesti dentro gli occhi suoi. E ora in cerca dell'ultimo bar, sulla strada solamente tu, pensi a questa vita senza chance, e una madre non ti aspetta più. E non si fa legare il cuore